Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Le parole dell'assenza sono come zanzare, piccole, insidiose, ma non fanno clamore. Sono pozzi nei pozzi, muscoli a pezzi, fiumi che il mare non vede arrivare. Non riportano nessuno, non riportano nessuno, non riportano nessuno, non riportano nessuno. Che cosa vi sta dicendo? Che siete già in ritardo? Che stamattina sarà dura? Sarà dura perché insomma le vacanze sono passate, ma non sembra neanche di averle fatte, che fa freddo, che è tutto in salita, oh, e poi stasera ci sarà quell'incontro che proprio no, in cui sapete già che non andrà bene. Oppure vi sta dicendo che siete belli, pronti ad affrontare una giornata, perché no, che comunque la vita va presa con un sorriso. Ma di chi sto parlando? Della nostra vocina. A volte sussurra delle cose piacevoli, a volte fa la voce rossa, a volte ci tormenta, a volte vorremmo sentirla per anche in qualche modo farci orientare da lei sulle nostre scelte, e lei non parla. Oggi parliamo della nostra vocina interiore. Tutti noi ce l'abbiamo, guai a silenziarla, e bisogna imparare a gestirla, a intrecciare con lei una buona relazione, perché può essere una straordinaria alleata. Allora, per la nostra vocina interiore, per capire come sentirla, se darle rette e quando, ho invitato Stefano Bizzaglia. Ciao Stefano. Buongiorno Nicoletta. Coach, esperto in PNL, autore di un libro Fino a un metro oltre, e quindi nel tuo libro parli anche di questa, io dico, la chiamo vocina interiore. Sono un, possiamo chiamarla così? Rendi molto bene il concetto. Ecco, quando noi vogliamo fare una cosa e già sappiamo che non siamo capaci, oppure abbiamo già paura di ricevere una sconfitta, o al contrario invece, perché non è che siamo sempre così negativi, ci sono anche tanti momenti della giornata nel, no, che ci piacciamo e siamo soddisfatti e ci sentiamo forti, propositivi, no, esploratori. Stefano, ti lascio la parola. Dunque, grazie Nicoletta per questa opportunità innanzitutto, buongiorno ai radioascoltatori. Dunque, nel libro spiego esattamente un po' la mia storia, la mia esperienza, racconto un po' la mia storia, e ci sono molti spunti di riflessione rispetto a queste famose risorse che non lo dico io, ma lo dice la scienza, che tutti quanti noi possediamo, ma che ci dimentichiamo di utilizzare o magari non abbiamo mai esplorato. Il nostro cervello è fondamentalmente pigro, il cervello ama quello che conosce già, non quello che non sa ancora. Nel continuare a fare le cose come le abbiamo sempre fatto, il rischio è che si continuino a realizzare gli stessi risultati. E ad esempio, e la vocina lo sa, e la vocina cosa lo c'entra? Sa, la vocina lo sa, perché nel momento in cui il nuovo sopravanza, il vecchio si ribella. È il nostro cervello che si ribella in realtà, perché ci dice: ma perché mi vuoi costringere a fare qualcosa di diverso, visto che magari sono 20 anni che fai sempre questa cosa qui, ce l'hai già il comportamento. Ecco, quel comportamento può aver funzionato tante altre volte, non funziona nel momento in cui mi dimentico di contestualizzare quello che sto facendo, quello che devo fare. In prossimità di un appuntamento, pensare che potrebbe andar male significa creare i presupposti perché abbastanza probabilmente possa andar male. Perché noi non ne abbiamo la consapevolezza, ma possiamo essere davvero incisivi, fare la differenza anche nel modo in cui parliamo, ci relazioniamo con la persona che abbiamo davanti, vero? Assolutamente sì. Non sfruttiamo sempre questa risorsa. Non la sfruttiamo sempre, ce ne dimentichiamo e ci facciamo condizionare dal nostro stato d'animo. Che può arrivare da momenti non particolarmente esaltanti. Ciò non significa che i momenti successivi dovranno essere dello stesso tenore. Basterebbe ricordarsi molto semplicemente quando il momento in cui si è fatto qualcosa di esaltante, qualcosa di bello, qualcosa di interessante. Questo non significa... Ma la mia vocina mi dice: ah, ma Nico, non ti montare la testa, è stato un caso, è stata una botta di fortuna. Rispondimi. Non è stata una botta di fortuna, non fosse altro perché sei stata tu la protagonista di quel risultato. Puoi venire a parlare tu con la mia vocina, perché ci sono delle volte che mi fa dei mazzi pazzeschi. Ecco, il problema è quando si dà troppo ascolto a quella vocina e spesso lo si fa per comodità, perché cambiare è dura, ma cambiare è fondamentale. Non fosse altro perché tutti quanti noi ci meritiamo un tenore di vita migliore, soprattutto quando quello che abbiamo non ci soddisfa pienamente. Il guaio è quando chi ha un tenore di vita che non lo soddisfa pensa di non potersene meritare un altro. Quello è il caso in cui è molto probabile che quella persona abbia dimenticato che in lui ci sono tutte le risorse di cui avrebbe bisogno per fare un cambio di passo. Ce le ha già il kit, abbiamo già questo kit incorporato. Il problema è che non le troviamo, come quando cerchi, ti devi vestire, sei di corsa, vuoi cercare quella cintura, vengono fuori tutte le altre, quella lì non c'è. È un po' la stessa cosa che succede quando noi cerchiamo dentro di noi delle risorse per affrontare la sfida e le troviamo tutte le altre tranne quella. Come si fa allora? Guarda, hai fatto un esempio molto calzante a proposito della cintura, perché in quel momento lì ci aggredisce l'ansia, la fretta, ed è quello che ci spesso condiziona nella fretta di dover trovare la soluzione. La cintura è a casa, basterebbe fermarsi un attimino, ricordarsi che la cintura è a casa e poi la cintura la si trova. Lo stesso per le nostre risorse, ce le abbiamo. Questo lo diciamo anche agli uomini, a voi che al mattino quando vi alzate c'è sempre qualche cosa che perdete. Non trovo le calze, non trovo la camicia, è sempre lì, allo stesso posto. Questo, scusa, ho dovuto fare una parentesi per le amiche che sanno come me che devono rincorrere, no, il loro compagno distribuendo cose che sono sempre state lì e che voi non guardate. Ma scusa, tornando alla nostra vocina. Ricordato quando ero piccolo che vivevo ancora in casa con mamma e papà, io spesso accusavo mia madre di non farmi trovare le cose. Vedi, è proprio, si vede la PNL non l'ha studiato, lo studierà, una lo cosa studierà. Tipicamente maschile. Il problema qual è? È che quelle cose le metteva a posto mia madre e contavo sul fatto che lei dovesse metterle nel posto dove io avrei dovuto cercarle. Sarebbe stato diverso se mia madre mi avesse motivato a mettermele a posto da solo. Sì. Ecco, questo è quello che spesso succede. Le persone sono in attesa di qualcuno che dica loro quello che deve fare o che succeda qualcosa. Il fatto è che quando affidiamo agli altri la responsabilità di darci indicazione su come comportarci, è abbastanza probabile che gli altri ci diano delle soluzioni che sono le loro soluzioni, ma che non sono le nostre. E quando anche il risultato che produce quel comportamento suggerito è positivo, qual è il problema, Nicoletta? Non abbiamo fatto l'esperienza, non sappiamo perché quel risultato positivo si è realizzato. È come se la mia vicina mi prestasse la cintura, non è la mia. Esattamente, non è la tua, bravissima. Non è la mia, non mi scende così bene. Esattamente. Quindi alle mamme all'ascolto e ai genitori all'ascolto che cosa diciamo quando i loro bambini si lamentano dicendo, perché si impara sin da piccoli. Assolutamente, ecco. Sì. Mamma, dove hai messo? Allora noi che cosa dobbiamo? Responsabilizzarli ad ordinare ad esempio la loro camera, e anche ad questo esempio, è un esercizio. Assolutamente, per... sì, inizia da lì. Giusto dare le indicazioni le prime volte, far vedere dove magari mettere la cintura, sì, ma continuare a mettere la cintura dove il bambino o la bambina desidera trovarla significa dover continuare ad andare sempre in correzione. Bisognerebbe invece iniziare a insegnare ai bambini affinché imparino nuovi strumenti e dire loro cosa ti serve per cominciare a organizzare il tuo armadio o il tuo cassetto. E ci sorprenderà renderci conto che insegnando queste, no, questa organizzazione ai nostri figli, o parlandone con i nostri amici, impareremo a riorganizzare il nostro, tra virgolette, armadio. Per differenza, sì. Vero? Per differenza è così, è assolutamente sì. Allora, grazie a Stefano Bizzaglia per essere stato con noi fino a un metro oltre, tra l'altro un libro che ti sei autoprodotto, esattamente. Quindi è un libro in cui l'idea è nata quando in America il tuo coach ti ha detto: se tu fossi americano racconteresti la tua storia. Esattamente sì, perché ha sostenuto che avevo una storia da raccontare. Quindi... Però tu vedi che hai fatto quello che ha detto lui? Beh no, io non ho fatto quello che ha detto lui. Io non lo prendo in castagna. Ho colto il suggerimento, ho colto lo stimolo, ci ho lavorato e ho prodotto poi sta cosa qua che appunto si è manifestata nel libro. E soprattutto nel libro racconti di un sogno che hai fatto e che hai visto proprio nei dettagli e che sei riuscita a realizzare. Definito nei dettagli, e quando è successo è stata semplicemente l'ennesima rappresentazione di qualcosa che io avevo già visto infinite volte nella mia testa. E hai lasciato la tua vocina senza parole. Grazie a Stefano Bizzaglia, grazie a voi, noi ci sentiamo come sempre, grazie a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e poi subito dopo per la diretta Facebook. Dai che l'anno è partito!